raise your hand with that. Spazi in Europa. L'Africa è grande, senza equini. È l'occasione, un posto d'oro. Decide di partire per una grande cavalcata e sul continente dorato arriva fiero e ben strigliato. L'erba abbonda e i germogli sono teneri. È la bella vita, è magnifica. Così ad uno si diffondono. Ma che diavolo gli piglia? Non sono immuni alla mosca Tsetse e si risveglia. Se non vogliono evolversi, li ucciderà nel sogno. È proprio questa la storia. Alcuni non vogliono evolversi. Le essenze come sola difesa sono rapidamente uccisi. Gli altri si adattano alla cultura del luogo e si fanno furti. La mosca non distingue le striature. Trasformati in zebre, vivono in pace. Qua già, nel gruppo, è una zebra particolare. Lui, che era ben poco motivato per il pelame da adottare, sceglie quindi l'Africa del Sud, dove la Tsetse è intorpidita. Portando una zebratura leggera, non cambia la propria vita.